Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi il mio saluto e ben ritrovati a questo appuntamento mensile attorno alla parola di Dio. Come dicevo un pochino il canto che ci ha preparati a questo nostro appuntamento, invochiamo proprio lo Spirito perché la parola possa aprirsi, schiudersi e illuminare anche il nostro cammino di fede. Come sapete, stiamo portando avanti la lettura continua degli Atti degli Apostoli e siamo arrivati al capitolo 19. La volta scorsa il nostro commento si è soffermato sulla pagina in cui l'Apostolo Paolo è giunto nella città di Efeso e lì pian piano ha stabilito la comunità. Il testo diceva che Paolo per bene 2 anni si fermò nella città di Efeso e quando tutto sembra compiuto, cioè sul procinto di concludersi, ecco che succede qualcosa di particolare. Quindi questa sera ci dedicheremo ai versetti del capitolo 19 che vanno dal 21 fino alla fine del capitolo, cercando di vedere quello che succede all'Apostolo Paolo e come questo può illuminare anche la nostra vita di discepoli di Cristo. Invito quanti sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione del Nuovo Testamento o della Bibbia intera, in modo da seguire insieme a me la lettura del testo. Lo apriamo quindi al capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, al versetto 21. Cominciamo con la scena che introduce questo momento, questa pagina significativa della vita di Paolo. Leggiamo i versetti dal 21 al 22 che fanno appunto da prologo, anticipo di quello che succederà a Efeso con Paolo. Dopo questi fatti, Paolo si propose nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme. Diceva, dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia 2 dei suoi aiutanti, cioè Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia dell'Asia. Bene, questi 2 versetti ci dicono, un pochino preparano la scena. Sono però 2 versetti molto importanti perché segnano, come dire, un punto di svolta nella vita di Paolo. Sappiamo che dietro gli Atti degli Apostoli c'è un narratore specifico, che è l'Evangelista Luca. Ecco, se qualcuno di voi forse lo ricorda, se si prende in mano il testo dell'Evangelo di Luca, si nota che a un certo punto del Vangelo la situazione cambia, cioè i discepoli che seguono Gesù si rendono conto che termina il periodo del semplice ministero pubblico con il successo, con i miracoli, con le folle che seguono e si entra in un momento più pericoloso, più impegnativo, segnato dall'ombra della croce. Nel Vangelo questo è posizionato al capitolo 9, nel versetto 51, dove ci viene detto che Gesù si propone fermamente di andare a Gerusalemme. E addirittura viene utilizzato un verbo che ci dice che Gesù indurì il volto, cioè fece dura la faccia, rese duro se stesso per mettersi in cammino verso la città santa. Ora, la stessa cosa avviene negli Atti degli Apostoli, proprio nei 2 versetti che abbiamo letto adesso. Al termine dei 2 anni a Efeso, dopo i miracoli che si sono compiuti, dopo il successo di tutta quella gente che, abbracciando la fede, fece un rogo di tutte le proprie pratiche magiche, di tutti i libri di magia che avevano, mettendo a disposizione anche il denaro della comunità, bene, dopo tutto questo Paolo decide di dirigersi verso Gerusalemme. E qui avviene un grande cambiamento, perché si passa dal Paolo evangelizzatore, fondatore di comunità, al Paolo sofferente. Praticamente da questi 2 versetti iniziano Inizia l'ultima sezione, gli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli, ce ne sono ancora 9, però è una sezione molto particolare quella che si apre qui, perché prepara il Paolo sofferente. È una pagina di vita abbastanza estesa, quella del Paolo prigioniero, del Paolo martire, che sarà particolarmente feconda. Bene, inizia proprio qui. Tra l'altro, quello che noi traduciamo dopo questi fatti, nel greco c'è il verbo plerò, cioè il verbo del compimento, dopo che tutte queste cose furono compiute, cioè siamo davvero a un punto di svolta, è terminato qualcosa e sta iniziando qualcosa di nuovo. Ora, la decisione di andare a Gerusalemme non è una decisione che Paolo prende da sé, il testo dice si propose nello spirito, anche qui la traduzione letterale sarebbe stando nello spirito, quindi dopo aver compiuto tutte queste cose, stando nello spirito, Paolo, attraversando la Macedonia e l'Acaia, si diresse verso Gerusalemme. Quindi c'è, come dire, una decisione che matura non per una sensibilità di Paolo, ma una decisione che matura alla luce dello spirito. La fase cambia anche da un punto di vista dei discorsi, i contenuti dei discorsi che da questo momento in poi caratterizzeranno l'Apostolo Paolo non sono più discorsi di annuncio dove viene esposto il mistero cristiano, ma sono discorsi di addio, discorsi in cui viene consegnata ai discepoli di Paolo la responsabilità sulla comunità. E la stessa Gerusalemme cambia volto, Gerusalemme non è più il luogo della Chiesa Madre, anche se ovviamente Paolo si dirige verso questa città con un obiettivo ben preciso, quello di portare la colletta e quindi assicurare attraverso questo gesto la profonda coinonia tra le comunità che lui ha fondato e la Chiesa Madre di Gerusalemme. Sappiamo che con Gerusalemme, insomma, non tutte le cose proprio andavano benissimo, quindi c'era bisogno di un segno concreto che assicurasse che Paolo aveva a cuore la Chiesa Madre. Però, ecco, non c'è più questo volto, solo questo volto di Gerusalemme. Matura in questi due versetti un altro volto, che è quello di Gerusalemme come il luogo degli avversari del Vangelo. Il luogo del martirio, il luogo dove inizierà il lungo viaggio della prigionia, il lungo viaggio del Paolo in catene. Ecco, nonostante tutto questo, notiamo che lo sguardo di Paolo è comunque puntato in avanti, è puntato al compimento della sua missione, è puntato ad andare oltre il territorio che lui finora ha visitato ed è puntato verso Roma. E notiamo il modo in cui si parla di Roma, anche nella lettera ai Romani, no? Viene annunciato il viaggio nella comunità romana, il modo in cui si parla di Roma sembra essere un modo in cui Paolo si passa a salutare i Romani, ma non a fermarsi lì, sembra che abbia in mente già un altro destino, che nella lettera ai Romani verrà meglio identificato con la meta delle comunità di Spagna. Quindi notiamo questi due versetti che creano un attimo di ambientazione rispetto al momento conclusivo della sua missione a Efeso, ci introducono in una pagina nuova. Un Paolo che si mette in cammino, ma che compie la sua missione all'insegna di, come dire, un percorso duro, forte, impegnativo, segnato dal mistero della sofferenza. Ecco, è proprio in questo momento in cui Paolo sembra decidere di partire che ecco succedere un episodio molto particolare, il grande tumulto degli argentieri di Efeso. Allora, questo episodio viene narrato in tre momenti. Prima di tutto ci viene descritto un attimo cosa succede, come scatta la miccia del tumulto, poi viene descritto il tumulto in se stesso e il discorso del cancelliere che riesce a calmare la folla. E poi cercheremo di capire come mai l'autore degli atti posiziona proprio in questo momento, cioè alla fine dei 2 anni, questo episodio. Cominciamo a vedere che cosa succede. Siamo nei versetti 23, 27 del capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. In quello stesso periodo scoppiò un tumulto non piccolo riguardo alla via. Un tale chiamato Demetrio, argentiere, che fabbricava tempietti di Artemide in argento e procurava in tal modo un poco guadagno, non poco guadagno agli artigiani, li radunò insieme agli altri che si occupavano di cose del genere e rivolse loro queste parole: Cittadini, sapete bene che da questa attività proviene il nostro benessere. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato molta gente, non soltanto di Efeso, ma di quasi tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati da mani d'uomo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide venga screditato e venga distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adorano. Allora, notiamo subito il tumulto, il cosiddetto tumulto degli argentieri, nasce nel contesto di interessi di una classe di persone. C'è una classe, quella dei commercianti, che consegnavano delle immagini votive, dei tempietti. È qualcosa che succede ancora oggi quando si va nei santuari. In genere vengono fabbricate o delle statue o delle piccole immagini con il santuario o delle mini sculture del santuario stesso. Ora, questi fabbricanti di tempietti si sentono minacciati dall'annuncio di Paolo. E questo ci dice indirettamente che a Efeso l'annuncio cristiano ha trovato accoglienza. Quindi ha trovato accoglienza staccando diverse persone della comunità dal culto pagano alla dea Artemide. Non solo, probabilmente questi che hanno aderito alle parole di Paolo, hanno aderito quindi al Vangelo e che non ritengono importante sicuramente né il tempio della dea Artemide né un tempio come luogo della venerazione di Dio, cominciano a diffondere a loro volta il messaggio, quindi creando un certo, come dire, degli interrogativi sul tipo di culto che la città di Efeso e il mondo intero riserva alla dea Artemide. Teniamo presente che la dea Artemide è la dea della caccia, in genere era rappresentata con un arco, delle frecce, e vicino a lei c'era o un cane da caccia oppure un animale dei boschi, che poteva essere un capriolo, un cerviatto, un cervo. Insomma, la dea della caccia era rappresentata in genere in questo modo. Era anche la dea della fecondità e la rappresentazione con cui veniva rappresentata Efeso era probabilmente quella della dea della fecondità dalle molte mammelle, proprio a indicare la fecondità. Era anche la dea della verginità, perché la mitologia raccontava che Artemide volle conservare la verginità per tutta la vita. E allora si narra che a quel tempo molte ragazze trascorrevano tra i 10 e i 15 anni, trascorrevano un anno intero all'interno del tempio di Efeso come, come dire, ancelle della divinità, come emblema della verginità di cui la divinità era un pochino la rappresentazione. Ora, in questo contesto, Paolo diventa una minaccia. Tra l'altro è interessante notare come il tumulto scoppia su un piccolo gruppo riguardo alla via. I cristiani sono chiamati in diversi punti degli Atti degli Apostoli come i discepoli della via. il tema ritorna ad esempio al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, così come agli inizi del capitolo 19. Il fatto di essere chiamati come discepoli della via ci dice che i cristiani dei primi secoli si distinguevano da tutti gli altri per un particolare comportamento morale. Non solo aderivano a Cristo identificato come la via, la verità e la vita, ma questa loro fede si trasformava, si comunicava attraverso un preciso comportamento di vita che si manifestava nelle relazioni sociali. E questo direi è una cosa molto particolare, molto significativa, che interpella anche noi. Cioè il nostro modo di vivere la nostra fede si dovrebbe sempre manifestare attraverso il nostro comportamento. Quindi è un tipo di fede che però va a toccare gli interessi finanziari, potremmo dire gli affari, di una comunità. E anche qua notiamo un parallelismo tra il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Il momento difficile per Gesù inizia quando? Inizia con la cacciata dei venditori del Tempio. Il momento del Paolo che si incammina, se vogliamo, verso la lunga prigionia, verso la pagina più dura del suo ministero, inizia proprio con la minaccia al mondo degli affari. Là erano stati cacciati i venditori del Tempio e qui in un certo senso sono tutti i venditori, tutti i commercianti che vengono convocati e sotto la falsa motivazione dell'attenzione alla grande dea che rischia lo scredito di essere screditate insieme al Tempio che tutto il mondo conosce. Bene, in questo contesto anche Paolo diventa in un certo senso uno che caccia i venditori del Tempio. Quindi la motivazione che fa scattare il tumulto è una motivazione che ci dice l'impatto del Vangelo nella vita dei credenti e nello stesso tempo il fatto che va a urtare gli interessi di qualcuno. Quando il Vangelo è vissuto fino in fondo, si rischia sempre di urtare un pochino gli interessi di qualcuno. Lasciamo ora un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa avere il tempo di rileggere un attimo questi versetti dal 21 al 27. Dopodiché continueremo con la seconda parte della nostra riflessione per vedere cosa succede nel tumulto e come il cancelliere riesce a intervenire e placare gli animi. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo la nostra condivisione. Quindi siamo nel contesto dell'annuncio nella comunità di Efeso e Paolo, dopo la ribellione dei commercianti, si trova di fronte a un tumulto, a un pericolo reale per sé. Sentiamo come narra questo episodio Luca negli Atti degli Apostoli. Siamo al capitolo 19, come vi dicevo, e ci spostiamo dai versetti 28 in poi. All'udire ciò, si infiammarono d'ira e si misero a gridare: «Grande è l'Artemise degli Efesini!». La città fu piena di confusione e si precipitarono in massa verso il teatro, trascinando con sé i macedoni Gaio e Aristarco, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni degli esiarchi, che erano suoi amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era confusa e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Alcuni della folla informarono un certo Alessandro che i giudei avevano spinto avanti. Costui, fatto un cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo. Appena s'accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi 2 ore: «Grande è l'Artemide degli Efesini. Allora, notiamo il tumulto. Il tumulto sembra opporre all'annuncio del Vangelo l'annuncio di Artemide in modo deciso. Con questo grido, grande è l'Artemide degli Efesini. Allora, qui noi dobbiamo contestualizzare un attimo la scena. Efeso era la città che custodiva una delle sette meraviglie del mondo. E questa meraviglia dell'antichità era proprio il tempio dedicato alla dea Artemide. L'elenco delle sette meraviglie del mondo antico era stato stilato nel VI secolo avanti Cristo dal re della Lidia, un certo Creso, che fece costruire il tempio dedicato ad Artemide, cercando di inserirlo all'interno di queste sette meraviglie. Questa celebre lista viene confermata poi nel III secolo, ed è nota come la lista delle sette meraviglie dell'antichità. Pensate, sentite cosa scrive un poeta, Antipatro di Sidone, nel II secolo avanti Cristo. Lui diceva e menziona le sette meraviglie del mondo, no? Ho posto gli occhi sulle grandi mura di Babilonia, ed era una delle meraviglie del mondo. Ho posto gli occhi sulla statua di Zeus presso Olimpia. Ho posto gli occhi sui giardini pensili di Babilonia, sul colosso del dio Sole a Rodi, sul grande lavoro delle alte piramidi, sul mausoleo di Alicarnasso. Ecco le sei meraviglie, no? Ma quando io vidi la casa d'Artemide che sormonta le nubi, perser tutte codeste meraviglie il loro splendore, e allora dissi: invero, mai il sole vide una grandezza così ampia. Nel secondo secolo d.C., lo scrittore e geografo greco Pausania scrisse più o meno le stesse cose riguardo al santuario della dea Artemide, aggiungendo: tre cose contribuiscono alla sua fama. La grandezza del tempio che supera tutte le costruzioni umane, lo splendore della città di Efeso e la rinomanza della dea Artemide. Quindi notate che siamo a distanza di 4 secoli, a distanza di 4 secoli dal secondo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo, i testi antichi ci parlano dello splendore enorme di questa meraviglia del mondo. Pensate che il tempio venne distrutto attorno al IV secolo avanti Cristo, e Alessandro Magno si propose di pagare le spese per ricostruirlo, per farlo tornare al suo splendore. Ma i responsabili del tempio rifiutarono elegantemente l'offerta, perché non volevano che fosse legata a una sola persona, e chiesero le offerte alla gente, che profuse in generose offerte, e il tempio fu ristabilito nel suo originario splendore nel giro di poco tempo. Plinio il Vecchio, lo scrittore romano, ci indica le proporzioni di questo tempio: 115 metri di lunghezza, 55 metri di larghezza. Per costruirlo erano stati necessari 120 anni. Le colonne che circondavano il tempio erano 127 e ognuna di esse alta bene 20 metri. Pensate cosa voleva dire in un tempo in cui l'unica forza era quella degli uomini, cosa voleva dire costruire un edificio di questa mole. E si racconta anche che quando vennero costruite, innalzate le 8 colonne che rendevano luminosa la facciata, e si trattava di posare su queste 8 colonne alte 20 metri l'architrave, l'architetto non sapeva come fare. E siccome si trovava di fronte a una situazione di quasi fallimentare, perché se non posava l'architrave come poteva andare avanti tutta l'opera? Quindi aveva immaginato queste alte colonne di 20 metri, le aveva fatte erigere e poi non sapeva come mettere l'architrave. era sul procinto di togliersi la vita, di suicidarsi, quando durante la notte, il racconto, il testo dice, gli apparve in sogno la dea Artemide e lo incoraggiò a vivere, dicendogli che lei stessa avrebbe sistemato l'enorme architrave. E al mattino l'architrave sarebbe stato posto su queste 8 colonne come per magia. Al di là di questi racconti che comunque fanno capire l'enorme mole, l'enorme lavoro anche che era dietro questo grande tempio, va detto che il tempio divenne presto un'istituzione anche potente, non solo di carattere religioso, sia per i possedimenti che circondavano l'area sacra e soprattutto per il ruolo che aveva. Era uno dei pochi posti nel mondo dove si poteva godere del diritto d'asilo, vale a dire chi era condannato a morte, se andava al tempio e si rifugiava al suo interno, non uscendone ovviamente più, aveva diritto alla vita, quindi era un porto sicuro. Allo stesso tempo possedeva numerosi schiavi e poiché il suo carattere sacro era riconosciuto nel mondo di allora, funzionava anche come una enorme banca, custodiva depositi, si cambiavano monete, si potevano fare prestiti e c'erano molta gente della nobiltà che lì deponeva le proprie cose più preziose. Una volta all'anno c'era una processione molto partecipata della divinità che usciva a contemplare i suoi domini secondo l'usanza orientale e insomma questo tempio era considerato davvero una delle enormi meraviglie del mondo. Il tempio venne abbattuto nel 263 dai Goti quando penetrarono attraverso con le loro imbarcazioni fino a Efeso e con il tempio rasero al suolo il tempio, portarono via le sue ricchezze e anche distrussero la famosa biblioteca di Celso che era custodita in quest'area sacra. Il colpo finale al tempio glielo diede un grande padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo, che durante la sua visita a Efeso nel 401, quindi in un tempo in cui ormai la religione cristiana si era imposta come religione di Stato, spogliò definitivamente il luogo della grande dea Artemide. Ecco, perché racconto queste cose? Per far capire come quello che avviene ad Efeso effettivamente va a toccare un aspetto delicatissimo della città. Che cosa genera il tumulto? Il tumulto è generato da confusione, ira e paura. Alla fine, ironicamente, l'autore sacro ci dice che l'assemblea era così confusa che i più non sapevano nemmeno il motivo per cui erano accorsi. Quante volte ciò che genera confusione, tumulto, altro non è che la paura, la confusione e l'ira. Anzi, questi sono i tre ingredienti anche che fanno suscitare la guerra e a volte usano i potenti questi ingredienti per convincere l'opinione pubblica che la guerra è giusta, attraverso la confusione, la paura e l'ira, la rabbia che si cova dentro per diverse ragioni. In questo contesto di tumulto la città si precipita nel teatro, e anche il teatro è stato riportato alla luce gli scavi archeologici, e non era un teatrino piccolino dove ci potevano stare 800 persone, nel teatro di Efeso potevano stare comodamente bene 25.000 persone. Pensate quindi la città che si raduna al completo all'interno di questo teatro e si mette ad urlare. Sicuramente Gaio ed Aristarco, i compagni di viaggio di Paolo, si saranno presi un bel spavento quel giorno. Paolo, di fronte a tutta questa cosa, notiamo il coraggio dell'Apostolo. Paolo si vuole presentare alla folla per spiegare quello che sta succedendo e mostrando che nel retroscena praticamente non vuole distruggere nessun tempio della Dea Artemide, sta solo portando davanti a tutti la via del Vangelo, la via per eccellenza. Grazie a Dio alcuni asiarchi, non si capisce bene chi siano questi asiarchi, però ci fanno capire che Paolo aveva coinvolto anche nell'annuncio del Vangelo alcune persone importanti della città. Bene, questi asiarchi, che gli erano amici, lo pregano di non avventurarsi assolutamente nel teatro. E hanno fatto bene, perché sappiamo che quel certo Alessandro, probabilmente un giudeo, che si avventura nel teatro per far capire a tutta quella gente, magari di non confondere i cristiani, i discepoli della via, con gli altri giudei, perché ovviamente gli efesini non sanno distinguere chi erano gli uni gli altri, pensano che Paolo sia il portavoce, un rabbino di una setta giudaica che vuole mettere in discussione il culto alla Dea Artemide, quindi distruggere in qualche modo la rinomanza, ecco, di questo tempio e della sua divinità. Ecco, questa persona che cerca di difendere il popolo giudaico, appena si accorsero che era giudeo, si mettono tutti a gridare in coro per quasi 2 ore, grande l'Artemide degli Efesini. Quindi nulla di fatto in questo momento. Riusciamo a capire che Paolo ha avuto una sua incidenza con l'annuncio a Efeso, che Paolo è riuscito a coinvolgere non solo il popolo ma anche alcune persone, che in Paolo c'è il coraggio di affrontare anche un'assemblea, un tumulto di 25.000 persone, però per il momento riesce a starne fuori, cioè viene convinto a starne fuori. Come si conclude l'episodio? Leggiamo i versetti dal 35 al 41. Alla fine il cancelliere riuscì a calmare la folla e disse: «Cittadini, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che restiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il tempio né hanno bestemmiato la nostra dea. Perciò se Demetrio e gli artigiani, suoi compagni, hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono i tribunali e vi sono i proconsoli, si citino a giudizio l'un l'altro. Se poi avete ulteriori richieste, si deciderà nell'assemblea ordinaria. Rischiamo infatti di essere accusati di sedizione per quanto accaduto oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento». E con queste parole sciolse l'assemblea. Il cancelliere, perché il cancelliere ha così grande impatto? Perché era il funzionario più importante della città, quello che era incaricato di convocare l'assemblea del popolo. Tra l'altro, lui si rivolge mettendo tutto sul piano giuridico, e da un punto di vista giuridico Paolo e i suoi amici non hanno fatto niente di male. Quindi Demetrio e gli artigiani, per i loro interessi, sono invitati a rivolgersi ai tribunali oppure ai proconsoli. Ecco, la menzione dei proconsoli in questa pagina è importante, perché i proconsoli governavano la città fin quando non arrivava il console nominato, e noi sappiamo che ci fu un periodo di vacanza, dove il ruolo del console era vacante, tra il 54 e il 55 d.C., che è probabilmente il periodo in cui avviene questa sommossa narrata dagli Atti degli Apostoli. Quindi in modo molto semplice, Demetrio scioglie l'assemblea. Il cancelliere scioglie l'assemblea e rimanda a casa Demetrio con la sua cricca. Questo discorso mostra come nel confronto tra paganesimo e cristianesimo, il cristianesimo, i discepoli della via, ne escono vincenti. Perché ne escono vincenti? Perché non vogliono schiacciare nessuno, lasciano a ciascuno la libertà di abbracciare il credo come uno sente. Certamente il culto della Dea Artemide non aveva niente a che vedere con il culto cristiano, però Paolo a Efeso non impone il suo annuncio in modo violento. Non organizza un tumulto contro i fedeli della dea Artemide, cosa che invece avviene al contrario. E quindi, non essendoci motivazioni sostanziose per accusare il cristianesimo, l'assemblea si scioglie. In questo modo Luca raggiunge un triplice obiettivo. Prima di tutto mostra la superiorità della fede cristiana nei confronti del paganesimo. Dà un'immagine ideale del cristianesimo nei confronti della società e della legge romana e soprattutto discolpa in anticipo Paolo dalle accuse future, perché Paolo sarà accusato un'altra volta di essere uno che sedimenta tumulti e sarà accusato di questo proprio non appena arriva a Gerusalemme, e lì le cose non gli andranno tanto bene, lì le cose gli andranno male, sarà messo in prigione proprio per questo motivo. Quindi, vedete, Luca ci dice in anticipo che Paolo non ha nessuna colpevolezza, ma semplicemente dietro ci sono gli interessi di qualcuno. Quindi Paolo si sta dirigendo verso il luogo della sua prigionia, verso il luogo delle sue catene, però Luca tiene a mostrare Paolo come la persona che, guidata dallo spirito e dalla forza della parola, uscirà incolume da tutto questo. Come continuano le cose dopo, e terminiamo. Continuano con il versetto 1 del capitolo 20. Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli, rivolse loro un'esortazione, si congedò e partì per andare in Macedonia. Percorse quella regione facendo molti discorsi di esortazione e giunse in Grecia, dove rimase 3 mesi. Le insidie tesegli dai giudei mentre stava per imbarcarsi per la Siria lo decisero a ritornare passando per la Macedonia. Allora notiamo, cessato il tumulto, Paolo, la prima cosa che fa era già terminato, non è il tumulto la causa della sua partenza da Efeso. Luca ci dice che era già compiuto il suo ministero, quando si verificano questi fatti. Però Paolo prende l'occasione per consolidare maggiormente la fede all'interno della comunità e poi guarda oltre. Cerca di portare a compimento quel disegno che si era dato: passare per la Macedonia, dalla Macedonia arrivare in Grecia, dove rimanere alcuni mesi e da lì cercare di arrivare a Gerusalemme. Il problema è che il terreno è minato. Quei falsi fratelli, probabilmente provenienti dalla comunità di Antiochia, dopo che c'era stato il dissidio con Pietro, quei falsi fratelli giudeo-cristiani che non sono d'accordo con l'annuncio di Paolo, inseguono l'apostolo là dove lui semina il Vangelo, cercando di portare la loro visione delle cose e creano difficoltà a Paolo, gli bloccano, lo screditano, gli bloccano il cammino. Ecco perché Paolo, temendo queste insidie, decide di fare retromarcia e, passando per la Macedonia, tornerà a questo punto a Gerusalemme. L'importante è vedere come Paolo non si ferma mai. Di fronte alle prove, Paolo non sente restringersi i suoi orizzonti, ma i suoi orizzonti si ampliano, diventando sempre di più degli obiettivi luminosi da mettere a servizio del Vangelo. Ecco, cari ascoltatori, questa era un po' la pagina che quest'oggi volevamo condividere insieme, ripercorrendo questi versetti dal capitolo 19 fino all'incipit del capitolo 20. Come sapete, questo nostro appuntamento mensile è scandito sempre in due momenti. La prima parte è la parte dove spezzo la parola cercando di condividerle insieme a voi il suo contenuto, la seconda parte invece è dedicata alle vostre domande. che è un po' una parte preziosa quanto la prima, perché permette a volte di sottolineare un aspetto, individuare un interrogativo, fare un approfondimento che altrimenti passerebbe inosservato. Quindi lascio ora lo spazio alla regia in modo che vi siano date le indicazioni per contattarmi e così continuare la nostra riflessione su questo testo. Vi ringrazio fin d'ora per l'ascolto e resto in attesa dei vostri quesiti. Sì, pronto, buonasera. Buonasera padre, Irene da Trapani. E volevo, non so se riesco a essere chiara, volevo dire questo, Gesù ha detto, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Chiaramente noi siamo figli di un Dio crocifisso e ci sarebbe, mi voglio collegare, ho sentito la sua trasmissione, bellissima. Cioè, è facile per chi non è lontano dalla Chiesa, sentendo queste parole di Paolo e dei vari templi che c'erano allora col paganesimo, oggi potrebbero dire siamo ritornati al paganesimo perché adoriamo, facciamo l'ex voto con la manina, con la gambetta, però io penso, oppure con le immagini, quando ci sono le immagini, però io nella mia ignoranza penso che abbiamo bisogno di, non è paganesimo, appunto mi ricollego a Gesù come, diciamo, come contrasto con la gente lontana. Quando io vedo la Madonnina ritratta, non è che penso che è una figura ritratta, mi piace avere una figura da voler bene, come punto di riferimento, ma non intacca la mia religiosità. Grazie di cuore Irene per la sua domanda, perché effettivamente su questo aspetto magari è bene spendere qualche parola in più. Direi che la nostra fede non è una fede, come dire, iconoclasta. La nostra non è una fede che si oppone alle immagini. L'importante è che queste immagini o le sculture siano valorizzate nel modo corretto. Il valore delle immagini è quello di richiamare, far memoria di una pagina, se vogliamo, del Vangelo, di una pagina biblica, che è una pagina di vita nel caso di Maria, dei Santi, degli Apostoli, che è un tratto particolare della vita di Gesù in alcune tipologie di immagini, che possono essere, non so, il Sacro Cuore o l'immagine del Gesù misericordioso o il Buon Pastore, tutte queste immagini sottolineano un aspetto della spiritualità cristiana trasmessa attraverso la parola di Dio. Ora, quando l'immagine non viene assolutizzata, ma diventa un qualcosa che aiuta i nostri occhi, il nostro cuore, la nostra persona a raccoglierci nel mistero di Cristo, tutto questo non è negativo. Questo fa parte di, come dire, un cammino che uno sente di fare valorizzando. Ecco, quando diventa negativo tutto questo? Quando si utilizzano in modo sbagliato queste immagini facendone una sorta di talismani o delle sorte di scaccia diavoli, se volete. È vero che in alcuni casi la preghiera tiene lontano il male, però non è ci deve essere la partecipazione della vita, non deve essere un talismano apotropaico da utilizzare contro le varie forme di male. Quindi niente da dire contro tempietto, oggetti o raffigurazioni varie, non è tanto questo, ma all'uso che se ne fa. Volutamente, parlando di queste cose, non ho fatto nessun cenno all'icona, perché l'icona non è solo un'immagine, ma un qualcosa di molto più grande. E questo lo dico solo per cenni, perché non rientra nella trasmissione che abbiamo fatto. A volte, quando noi acquistiamo un'icona o regaliamo un'icona, spesso dimentichiamo questo: l'icona non è un oggetto, è un luogo misterioso di presenza, tanto vero che l'icona non viene dipinta, ma si scrive, si incide, cioè una pagina di Vangelo incisa in una tavola, che può essere di legno o di altro, ma che in qualche modo serve per manifestare la presenza di quel mistero che l'icona in qualche modo racchiude. Un'altra sottolineatura mi veniva di fronte alla domanda della nostra Irene. Se noi rileggiamo la pagina che abbiamo commentato questa sera, notiamo che l'Apostolo Paolo in questa pagina non parla. La sua testimonianza, fatto salvo i discorsi di esortazione conclusivi, la cosa che parla di più in lui è la sua testimonianza di vita. Il fatto che il suo portare il Vangelo abbia la forza di mettere in crisi non solo la classe di chi si approfitta della religione facendo affari, ma abbia il potere di mettere in difficoltà un'intera città. Allo stesso tempo mette in luce anche la debolezza della folla, che si lascia facilmente trascinare nel tumulto da chi dice una cosa o da chi dice un'altra, segnando una grande confusione. E a volte la folla è così, a volte la gente semplice è così, basta una cosa per suscitare tumulto, senza andare a fondo e senza capire a fondo quali sono le ragioni che ci stanno dietro. Grazie Irene per la tua domanda, perché come vedi è servita per apportare dei chiarimenti. Pronto? Buonasera. Sono sì, Carmelina, con chi parlo? Della Basilicata. Sì, Carmelina, mi dica. Allora, vorrei un po' citare ciò che avvenne a me nell'età adolescenziale. Io avevo un nonno che mi portava sempre al nocciolo della situazione, cioè a Dio Padre. Ad esempio, quando nessuno ti vede c'è un occhio divino che scruta e provvede. Quando mi portò proprio a questo santo timore di Dio. E allora io mi creo una preghiera: Signore, aiutami ad adorarti in spirito e verità, libera da idolatria, bigottismo, fanatismo religioso, false usanze e tradizioni create da noi uomini, e fa che ci prostriamo solo ed esclusivamente davanti a te. Dopo questo ebbi fame della parola di Dio, ma proprio come dice nella Bibbia, come la cerva ne è la corsi d'acqua, così l'anima mia ha sete di te, Signore. E non c'era nessuno che mi avviasse a questo, diciamo, a questo studio biblico. Poi con l'aiuto di Dio, grazie a Radio Maria, c'era Anna Maria Cenci, mi sa, c'era il programma La Bibbia in briciole, e insomma mi sono incamminata in questo meraviglioso cammino, e oggi sono talmente contenta e talmente convinta che io, quando mi incontro in qualche ritiro spirituale che facciamo, in qualche diciamo assemblea così, mi batto proprio, andiamo al nocciolo della situazione. Grazie di cuore, Carmelina, per il tuo intervento, che in modo diverso ripropone e tocca un altro aspetto rispetto a quello che ci ha suggerito prima la nostra amica Irene da Trapani. Allora, giustamente tu richiami i due fondamenti della formazione cristiana. I due fondamenti della formazione cristiana sono l'Eucarestia e la parola di Dio. Su questo posso dire anche un pochino di tra virgolette, giocare in casa, nel senso che una delle cose che il nostro fondatore, il mio fondatore, ha inculcato a noi paolini fin dall'inizio era proprio la forza di queste due fonti unite, l'Eucarestia e la parola di Dio. L'una senza l'altra rischiano di far crescere dei cristiani, lui dice, a metà. Addirittura il nostro fondatore si arrabbiava quando, entrando nelle nostre cappelle, vedeva nei banchi tanti libri di devozioni, magari di un santo o di quell'altro, tante biografie di un santo o di quell'altro. Le faceva togliere e diceva, Bibbia ed Eucaristia, questi fanno crescere dei cristiani solidi. Quindi, senza dubbio, queste sono le due grandi fonti a cui noi dobbiamo attingere. Nello stesso tempo, però, ci sono delle manifestazioni legate alla tradizione che hanno un loro perché, una loro storia, che fanno bene al cuore. Io dico così, io sono nato in un piccolo paesino di campagna nella provincia di Bergamo, dove praticamente la fede nei primi miei 18 anni di vita è stata nutrita anche da queste manifestazioni, che sono più popolari, dalle processioni ad alcune forme di devozioni tipiche del luogo, tipiche di quel santo, ad alcune ricostruzioni della storia. Ora, la tradizione non è qualcosa di negativo quando si manifesta in queste espressioni, bisogna solo, saperle vivere in modo corretto. Per dire, una processione vissuta bene nel canto, nell'ordine, nelle letture proposte, davvero diventa un annuncio per la città, il quartiere, il paese, oltre ad essere un qualcosa che attira l'attenzione in modo dignitoso. Quando invece diventa solo una parata un po' sguaiata, un po' scomposta, con canti trascinati che risalgono come minimo al periodo preconciliare, è chiaro che è meglio stare in chiesa, perché si rischia di portare un controannuncio, si rischia di portare un volto di una fede non matura, non adulta, una fede bigotta. Quindi anche lì sta proprio nel modo in cui uno porge, però questo non significa che le processioni o alcune forme di devozione non vadano vissute. Faccio un altro esempio che è oramai vicino, pensiamo alla ritualità che accompagna il perdono di Assisi, su cui la Chiesa a un certo punto è dovuta intervenire. Io ricordo quando appunto ero nel mio paese natale e non avevo ancora 18 anni, che c'era un'usanza molto curiosa nel giorno del perdono di Assisi. Le signore anziane e anche quelle un pochino più giovani in genere entravano in chiesa, recitavano le preghiere, poi uscivano da chiesa e rientravano un'altra volta, e così per decine di volte, come se ogni volta che entravano in chiesa potevano in qualche modo abbracciare o liberare un'anima dal purgatorio attraverso questa forma di ritualità. L'uscire di chiesa e rientrare permetteva, di finire l'applicazione per un'anima e iniziarne un'altra. Ora è chiaro che una certa ripetitività di questo tipo aveva perso il suo significato e suscitava non pochi interrogativi in coloro che magari avevano uno sguardo un pochino più critico sulle cose. Questo però non ci dice che il perdono di Assisi è un qualcosa di bigotto, no, è il modo in cui è stato a volte tradotto in alcune realtà non formate, che ha portato a delle forme di, tanto vero che poi anche su questo la Chiesa è intervenuta precisando bene di che cosa si tratta, come vivere quel momento, chi portare dentro di sé nella preghiera in quel momento. Insomma, la tradizione ci consegna delle perle, e queste perle possono diventare opache a causa di una mancanza di formazione, a causa della nostra trascuratezza, a causa della nostra superficialità. È chiaro però che se noi rimaniamo sempre ancorati alle due fonti per eccellenza, l'Eucaristia e la parola di Dio, e li viviamo non solo a livello personale, ma a livello comunitario, come espressione di una Chiesa che cammina alla luce del Vangelo, la nostra fede non corre il rischio della superficialità. Sarà una fede che cresce matura e solida, come anche, ripeto, ci diceva il nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione. Grazie quindi, Carmelina, per il tuo intervento. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Io sono Claudio da Roma. Volevo fare la seguente riflessione. Di fronte allo zelo missionario di San Paolo, che annuncia il Cristo nonostante il paganesimo imperante, e mi riferisco anche al discorso all'Areopago in cui annuncia Cristo di fronte a questi templi pagani che erano all'Areopago, mi sto chiedendo se la Chiesa in questi tempi non abbia perso un po' di questo zelo e pensi più al dialogo e al volemos bene più che all'annuncio di Cristo morto e risorto per la salvezza di tutti gli uomini. Grazie di cuore, Claudio, per il tuo intervento. Allora, prima di tutto faccio una precisazione che si ricollega un attimo alle riflessioni che abbiamo fatto in precedenza. Cioè il Paolo di Efeso rispetto al Paolo di Atene è un pochino diverso. Cioè notiamo certo lo zelo di questo Paolo che vuole intervenire nel teatro della città in occasione del tumulto, dicevamo un teatro con una capienza di 25.000 persone, ma sembra voglia intervenire più per proteggere i suoi due compagni di viaggio, Gaio ed Aristarco, che non per tenere un discorso pubblico davanti alla città. Viene comunque invitato a non farlo e se ne sta e rispetta quest'ordine. Quindi il Paolo di Efeso, per quanto sia un Paolo deciso nell'annuncio, non è il Paolo di Atene. Il Paolo di Atene è un Paolo guerrigliero che freme di zelo e di ira subito fin dall'inizio del suo arrivo nella città e che parte in quarta senza nemmeno aspettare che arrivino i suoi collaboratori. Sono delle premesse che non portano niente di buono al Paolo di Atene perché impostano anche l'annuncio in un modo sbagliato. Paolo cerca di convincere puntando sulla risurrezione e mettendo un po' in secondo piano la croce di Cristo. A Efeso invece Paolo matura la decisione nello spirito di andare e di abbracciare la croce. Sono due approcci diversi, non c'è più il Paolo col suo io che desidera convincere, ma un Paolo che sta nello spirito e sa che il protagonismo dell'annuncio della parola è dello spirito. Quindi sono due forme di missionarietà diverse, una, quella di Efeso, più improntata sull'accoglienza, l'altra, quella di Atene, più improntata su quasi l'imposizione, la forza di un annuncio. Quale delle due è più feconda? Sicuramente la seconda. E più andrà avanti con l'esperienza della prigionia, più Paolo interiorizzerà questo messaggio. La seconda cosa, oggi non si parla di missione, ma a me non sembra perché a partire dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco si è innescata all'interno della Chiesa una riflessione che ha comunque delle parole chiavi che tornano a più riprese, quella di essere una Chiesa in uscita, quella di essere una Chiesa che sa abitare le periferie, quella di essere una Chiesa attenta ai lontani e non solo quello di liberarsi da una visione di Chiesa come fortino da cui difendersi o di una Chiesa che ha sempre l'apologia tra le mani. È la Chiesa che si mette tutte in cammino con l'uomo del suo tempo. Ecco, se noi immaginiamo la missione come quella del guerriero che convince con tutte le forze chi gli sta di fronte imponendo il suo messaggio, certamente, grazie a Dio, questo non è ciò che la Chiesa fa oggi. Se si pensa invece alla missione come a un uscire da sé per camminare con l'uomo del nostro tempo, chiunque questo sia, beh, a me sembra che questo non manchi, anzi, che la Chiesa abbia un pochino recuperato su questa dimensione. Sono invece d'accordo con lei nel dire che le singole comunità cristiane hanno un pochino perso lo spessore missionario. Viene spesso delegato un gruppo, il cosiddetto gruppo missionario, che in genere si limita a fare delle piccole iniziative di carattere caritativo con qualche missione sparsa qua e là nelle parti più povere del mondo, però ecco, l'educazione di una comunità alla missione, come comunità missionaria, magari a volte lascia un pochino a desiderare. Però di stimoli, ecco, in tal senso mi sembra che non ce ne manchino, insomma. Grazie Claudio per il tuo intervento. Pronto? Oh, buonasera, con chi parlo? Buonasera, io sono Caterina e parlo da Cuneo. Io ho 93 anni, sono una di quelle persone, e non ero in casa, non ho sentito bene la sua catechesi, ma ho sentito quando ho parlato del perdono di Assisi. E allora sono una di quelle che entravo e uscivo dalla chiesa per il perdono di Assisi, come ha detto lei, no? E io adesso vorrei sapere bene com'è questo perdono di Assisi, perché ormai siamo vicino agosto e vorrei, se posso, lo vorrei poterlo fare. Carissima Caterina, prima di tutto grazie, perché con i tuoi 93 anni sei la testimone, insomma, di una fede che attraversa le diverse età della vita e che continua a mantenersi luminosa, chiara e serena. Quindi facciamo così, la tua domanda diventa una sorta di proposta alla nostra emittente, a Radio Maria, perché spieghi bene in occasione del perdono di Assisi, in queste due settimane che ancora ci separano, in che cosa consiste e come vivere bene questo momento, come vivere bene questo momento. Nello stesso tempo, se vuoi un confronto personale, no, su questo argomento, ti invito ad andare, tu sei di Cuneo, a due passi hai il movimento contemplativo missionario Charles de Foucault, la comunità fondata da padre Andrea Gasparino, basta che ti confronti con uno di loro e vedrai come ti spiegheranno bene bene questa cosa, aiutandoti anche a capire che tutto quello che tu hai vissuto in precedenza non viene buttato via, ci mancherebbe, è tutto valido, perché il Signore guarda il cuore, il modo in cui noi viviamo queste cose. Poi può capitare che con il tempo, a volte per mancanza di formazione, per trascuratezza personale, si possono perdere le origini delle cose, ma non è che cambia tutto e quello che io ho fatto fino adesso doveva finire, tutto resta valido perché il Signore cambia il cuore, e a me sembra di sentire, no? In questi tuoi 93 anni, anche dalla tua telefonata, proprio un cuore bello. Quindi grazie per il messaggio dato alla nostra emittente, e se hai occasione fatti portare o vai lì nella comunità di padre Andrea Gasparino e fatti spiegare bene questa cosa. Grazie Caterina per il tuo intervento. Ecco, mentre aspettiamo eventuali altre domande, voglio prendere l'occasione per dire due cose, no? Dicevamo che il capitolo che oggi abbiamo commentato è il momento in cui Paolo si dirige in modo deciso verso Gerusalemme, un pochino come Gesù al capitolo 9 del Vangelo di Luca, quando si passa dal ministero caratterizzato dal successo e dai miracoli al momento più segnato invece dalla croce. Lo stesso vale per Paolo. Bene, a Efeso Paolo si dirige verso quella pagina della sua vita che sarà caratterizzata dalla prigionia. Quanti anni Paolo vivrà l'esperienza della prigionia? Ecco, è difficile quantificare quanti anni dura questo, però noi abbiamo una testimonianza del primo secolo nei testi di Clemente Romano che poco prima dell'anno 100 così scrive in merito all'Apostolo Paolo. Scrive: per gelosia e discordia Paolo mostrò come si consegue il premio della costanza. 7 volte in catene, esiliato, lapidato, fattosi araldo dell'Oriente e dell'Occidente, conseguì nobile gloria per la sua fede. Dopo aver insegnato la giustizia in tutto il mondo, giunse fino agli estremi confini dell'Occidente e rese testimonianza dinanzi ai governanti, si staccò dal mondo e pervenne al luogo santo, divenendo il più grande modello di costanza. Ecco, probabilmente è da questa testimonianza di Clemente Romano che proviene l'elevazione, si può dire, di San Paolo a patrono di coloro che chiedono la pazienza. A Paolo si chiede sempre la pazienza, proprio perché divenne il più grande modello di costanza, ci dice Clemente Romano. Bene, Clemente Romano in questa testimonianza ci dice che Paolo passò 7 volte l'esperienza, visse 7 volte l'esperienza delle catene. Se noi intrecciamo la testimonianza degli Atti degli Apostoli e quella delle lettere di Paolo, ovviamente gli Atti ci riportano la testimonianza di un suo discepolo, Luca, le lettere ci portano la testimonianza viva dell'Apostolo, alcune, mentre altre, essendo state scritte dai suoi discepoli, ci portano la testimonianza dei suoi discepoli. Intrecciando queste due fonti, sembra proprio che il numero dato da Clemente Romano non voglia dire solo la pienezza, ma ci dica proprio i 7 momenti vissuti da Paolo. Allora abbiamo il primo momento, che è la prigionia a Filippi, narrata al capitolo 16 degli Atti. Un secondo momento è la prigionia a Corinto, raccontata al capitolo 18 degli Atti. Un terzo momento è la prigionia a Efeso. Nei 2 anni Paolo sembra aver vissuto un momento anche in prigione a Efeso, e questo è testimoniato nella corrispondenza con i Corinti. Da Efeso Paolo si dirige a Gerusalemme, dove sarà subito fatto prigioniero, capitolo 22. Da Gerusalemme sarà spostato a Cesarea, dove rimarrà prigioniero per 2 anni. Da Cesarea passerà a Roma con l'appello a Cesare, dove resta agli arresti domiciliari per altri 2 anni. Dopo questi 2 anni sembra che Paolo venga liberato e venga fatto prigioniero in un secondo momento, quando torna nella città provata dalla persecuzione dopo l'incendio causato da Nerone, quindi la seconda prigionia romana. In tutto 7 esperienze di prigionia che dovrebbero abbracciare un arco di tempo di prigionia abbastanza lungo, perché se facciamo un attimo i calcoli si va sui 7-8 anni. Tutto il ministero di Paolo è praticamente quasi un terzo del ministero di Paolo vissuto in prigione. Eppure questa esperienza di prigionia dell'Apostolo, che come dire, in un certo senso viene annunciata proprio nella pagina che quest'oggi abbiamo insieme condiviso, commentato, sarà l'esperienza che rende più fecondo il suo annuncio. Laddove è in carcere, Paolo si sente come quel seme che muore sotto la terra ma produce grande frutto. Penso sia un qualcosa, ecco, che dà anche l'unità di misura della nostra esperienza cristiana e può aiutare ciascuno di noi quando la nostra fede si intreccia con il percorso della sofferenza. Anche se capisco bene che queste cose sono facili da dirsi, ma poi nel momento in cui le dobbiamo vivere sulla nostra pelle, ecco, il discorso cambia. Comunque, sia il ministero pubblico di Gesù come il ministero di annuncio di Paolo sono caratterizzati dalla stessa logica. Pronto? Buonasera, padre. Buonasera, con chi parlo? Sono Carla della provincia di Milano. Mi dica, signora Carla. Volevo un chiarimento, volevo una delucidazione, se mi può dire qualcosa sul perdono di Assisi, in che cosa consiste. Grazie, l'ascolto per radio. Lei un pochino come la nostra signora Caterina di 93 anni lancia questo invito a Radio Maria, cioè non è possibile, come dire, spiegare in due parole il perdono di Assisi, perché rischio di cadere in quel ritualismo su cui ho messo un attimino il dito, no? Quindi è bene che la cosa sia un attimo approfondita in una, tanto ci sono ancora due settimane di tempo e quindi abbiamo, come dire, il tempo necessario per permettere attraverso Radio Maria di riapprofondire la cosa, no? di riapprofondire questa ritualità da un lato, ma anche il motivo dell'indulgenza plenaria che è associata ai fedeli che fanno memoria di quel momento, di quell'indulgenza che venne concessa da Papa Onorio III, se non ricordo male, su richiesta proprio di San Francesco d'Assisi, a tutti i fedeli che si recavano in preghiera alla chiesa della Porziuncola. Comunque i vostri interventi diventano un invito all'emittente perché in occasione proprio del perdono di Assisi si faccia un attimo un approfondimento su questo. Grazie signora Carla per il suo intervento. Allora, mi dicono dalla regia che il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio quanti sono intervenuti nella nostra trasmissione: Irene da Trapani, Carmelina dalla Basilicata, Claudio da Roma, Caterina da Cuneo, con i suoi 93 anni vissuti bene all'insegna della fede, e Carla da Milano. Ecco, raccogliamo l'invito ad approfondire la storia del perdono di Assisi e anche come vivere bene questo, lanciando proprio questa richiesta, ma sicuramente figuratevi se padre Livio non ha pensato a questa cosa. Ecco, io ricordo solo, prendo l'occasione per dire solo due cose, no? Ma è il racconto tradizionale, cioè che il secondo proprio il racconto della tradizione, il perdono di Assisi nasce in una notte di luglio del 1216, se non ricordo male, perché due anni fa era proprio il centenario del perdono. Quando Francesco d'Assisi era in preghiera proprio nella chiesa della Porziuncola ed ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, visto che lui aveva pregato per i peccatori così tanto. E Francesco rispose che voleva che venisse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, dopo essersi confessati e pentiti, avessero visitato la Chiesa. E la richiesta, proprio grazie all'intercessione di Maria, che è sempre madre di misericordia, fu esaudita ad un patto, al patto che Francesco si recasse dal Papa per richiedere questa indulgenza. E così Francesco ne approfittò proprio in quei giorni. A Perugia si era concluso il conclave portava sul soglio pontificio, dopo la morte di Innocenzo III, Onorio III, che concesse questo e lo concesse non solo per i vivi, ma per i defunti anche. E da lì nasce la tradizione del perdono di Assisi, che concede il perdono completo di tutte le colpe, quindi l'indulgenza plenaria, a coloro che confessati e pentiti non solo visitano la chiesa della Porziuncola, ma si uniscono ai francescani in questo orizzonte. Sono solo piccoli cenni, cari ascoltatori, ma Radio Maria ci aiuterà tutti ad approfondire meglio questa istituzione ecclesiale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi di essere stati in ascolto e di aver contribuito a commentare questa pagina degli Atti degli Apostoli e vi auguro una serena e santa estate. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.